that both need restored. If I ever settle down, you'd be my kind, and that's a good time for me to hit on down the line. Hurting in a love song, hurting in a love song, hurting in a love song. Can't be wrong. I'm the kind of man that likes to get away. I loved you, even though it's so. There's a duffel bag of mine, it's time to go. Hurting in a love song, hurting in a love song, hurting in a love song. Can't be wrong. E ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre Jean-Luc. Ospiti anche stasera, come previsto, siamo alla fine della tornata di interviste e con noi una band romana che viene a presentarci il suo nuovo disco. A voi la parola. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, noi siamo la Wild Shooter Band, veniamo da Roma appunto. Io sono Alex, la voce. Silvano, il basso. Marco, guitar. Salutiamo anche Gianfranco, la batteria, e Antonio, la chitarra, che per vari motivi sono rimasti a casa. E niente, vi auguriamo un buon ascolto con tanto Southern Rock e tanta buona musica italiana. Viaggio musicale nel passato, con la prima parte dedicata al Southern Rock americano degli anni 70, con la prima canzone ascoltata che si chiamava Hurting in a Love Song della Marshall Tucker Band, dal disco Carolina Dreams del 1977. Formazione guidata in passato dai fratelli Caldwell, che ha saputo ben rappresentare nella loro musica i grandi spazi del sud degli Stati Uniti. Che ne pensate? Ma guarda, veramente sembra di se chiudi gli occhi e ascolti la musica, sembra di stare nel West degli Stati Uniti. Loro sono meravigliosi, io li ho seguiti molto e so che sono una band che sono in attivo e suonano tantissimo. Io posso ricordare, guarda, le prime canzoni che mi vengono in mente, Can't You See, che addirittura è una riedizione, esatto, il classico anche rifatto da Hank Williams Junior, Take You the Hard Way, se non ricordo male, ma guarda, Take the Hard Way. Ci sono dei grandi successi, sembra realmente di vivere negli Stati Uniti. Loro sono un po' più tendenti al country americano più che al Southern Rock, ma realmente puoi sentire il sud nelle loro note, veramente. La Wild Shooter Band è attiva dal 2006, come vi siete formati? Che cosa ha fatto scattare in voi la passione per il Southern Rock? Allora, la White Shooter Band si è conosciuta nel 2006, eravamo tutti quanti, diciamo, più che altro amici, eravamo molto, molto uniti, ma alla fine purtroppo c'è stato soltanto un piccolo cambio, il cambio è stato al basso, sono subentrato io, Silvano, e da allora la lineup è rimasta sempre la stessa, uniti giustamente dalla passione per la musica, dalla voglia di fare buona musica tutti insieme, da amici è diventato quello che ad oggi è. Proseguiamo con i Point Blank, band texana nota più per i successi dei primi anni 80 in campo AOR negli anni 70, esce con alcuni dischi di stampo boogie rock nel 1977 dalle stampe Second Season, che contiene Part-Time Lover. Classica sonorità Texas Blues per una formazione che comunque non è riuscita ad andare oltre il mercato americano, che ne dite? Che dire, innanzitutto per noi non andare oltre il mercato americano sarebbe già di gran lunga un successo. No, ma detto questo, i Point Blank sono veramente una grande rock blues band, molto più southern dei Marshall, ma hanno una storia concentrata in fine anni 70 e primi 80, e? Forse con 6-7 album. Buona sonorità blues. Poi forse c'è una reunion che ho sentito nel 2009, hanno fatto una reunion e niente, Part Time Lover è un gran bel pezzo, credo forse uno dei più famosi. Sì, ma anche verso i primi anni 80, però siamo già nelle sonorità AOR. AOR, sì. Vostre performance come sono andate e quali le impressioni del pubblico a fine concerto? Ma guarda, le performance, devo dire la verità, per noi è una grande fortuna. Noi abbiamo un genere che si sposa, forse per assurdo, più con il live che con la discografia. Noi lavoriamo molto sul live, per noi è importantissimo, ed effettivamente ne raccogliamo i risultati. Siamo appena rientrati da un tour in Polonia, dove abbiamo partecipato al Blues International Festival di Gdynia. Quindi diciamo, la band e il genere ha l'opportunità di suonare in Italia ed in Europa, e devo dire il velo, riscontriamo molto entusiasmo durante il concerto e post concerto. Questo per noi è fondamentale, cioè iniziare ad avere un pubblico qui in Italia e iniziarlo ad avere anche all'estero, in Europa, è un grandissimo passo avanti. Questo perché obiettivamente oggi come oggi, con una discografia totalmente ferma, puntare sui live diventa veramente molto fondamentale per poter andare avanti e per poter poi arrivare direttamente alla gente. Questa prima parte finisce con i 38 Special, formazione di Jacksonville guidata dal cantante Donny Van Zandt, fratello del più celebre Ronnie Lynn Skynyrd, debutta nel 1977 con l'omonimo disco da cui ascoltiamo Long Time Gone.